Sia per i credenti sia per i non credenti, il rimorso per aver compiuto qualcosa contrario alla nostra morale o per essere stati colti in flagrante commettendo qualche colpa sono reazioni comuni. Per rimorso si intende quel senso di colpa o consapevolezza di aver commesso qualcosa che è ritenuto sbagliato e che non avremmo voluto compiere. Ho notato questo sentimento soprattutto dopo il decesso di una persona. Spesso un coniuge, un figlio o un genitore si sentono mancanti nei confronti della persona defunta per non aver fatto tutto il possibile o per non aver esaudito un loro desiderio. Un simile sentimento è l'inganno della nostra coscienza non modellata secondo il Vangelo, perché se effettivamente non si è fatto ciò che si doveva fare non vale più la pena, è inutile rimuginare le proprie colpe, inoltre è una mancanza di fede. Quando si confessano le proprie colpe davanti a Dio, se si è preso sul serio il sacrificio di Cristo e il suo significato, avere ancora dei pesi morali significa offendere l'opera di Cristo. Inoltre, se preghiamo con dei sensi di colpa dopo aver ricevuto un completo e sufficiente perdono, introduciamo di nuovo il dubbio e diamo prova di non aver preso sul serio ciò che Dio ha già detto. Se invece abbiamo fatto ciò che ritenevamo giusto e tutto il nostro possibile considerata la limitatezza della nostra natura umana, allora occorre un atto di volontà per cacciare il rimorso. Perché sicuramente è l'azione di Satana che vuole turbare la pace e la gioia del credente. Perciò se da un lato il rimorso è un dono di Dio mediante il quale ci siamo resi conto di aver sbagliato e grazie al quale abbiamo la possibilità di migliorare, occorre però tenere anche presente che esso non è sempre giusto. Sarà perciò di volta in volta necessario valutare alla luce della parola di Dio la validità di tale sentimento. Proprio perché la presenza del rimorso non è sempre lecita, occorre valutare anche il caso di coloro che ascoltano l'Evangelo e improvvisamente sentono una strana afflizione per il passato, un rincrescimento per certi comportamenti o un senso di colpa, i quali in definitiva sono tutti aspetti del rimorso. Purtroppo, a causa della nostra cultura moralistica proveniente dal cattolicesimo romano, chi prova questi sentimenti pensa di essere in regola con Cristo e li nutre come fossero un sacrificio da offrire a Dio. Vedendo il rimorso come qualcosa di prezioso, non fa nulla per evitarlo o cancellarlo. Pochi hanno compreso che provare rimorso non vuole dire aver subito una trasformazione nel cuore. Una persona può dire con lacrime e passione «mi dispiace», ma quello che pensa veramente è «sono veramente spiacente di essere stato scoperto e di aver coinvolto o fatto danni ad altri». Come genitori tutti abbiamo colto i nostri figli a compiere delle marachelle, quasi sempre. Esprimevano il loro disappunto, ma quasi sempre nulla è cambiato in loro. Da un certo punto di vista, abbiamo reagito con una totale frustrazione e abbiamo rifiutato completamente la loro tristezza, sapendo che il loro rimorso non aveva il significato che doveva avere. Del resto, anche Dio si comporta così. In Malachia 2.1.0.13 il profeta invoca la fedeltà fra marito e moglie. Non abbiamo tutti uno stesso padre, non ci ha creati uno stesso Dio. Perché dunque agiamo con perfidia l'uno verso l'altro, profanando il patto dei nostri padri? Giuda ha agito con perfidia, e un'abominazione è stata commessa in Israele e in Gerusalemme, perché Giuda ha profanato il luogo santo dell'Eterno, che egli ama, e ha sposato la figlia di un dio straniero. L'Eterno sterminerà dalle tende di Giacobbe colui che fa questo, chi veglia, chi risponde e chi offre. Un'oblazione all'Eterno degli eserciti. Voi fate anche quest'altra cosa, coprite l'altare dell'Eterno di lacrime, di pianto e di lamenti, perché non riguarda più con favore la vostra offerta e non la riceve più con piacere dalle vostre mani. Malachia 2.1.0.13. L'Eterno Dio dice al suo popolo che non è impressionato dalla loro tristezza e dal loro dolore e che anche se dovessero inondare l'altare di Dio con lacrime, anche se dovessero lamentarsi e fare cordoglio, lui non avrebbe risposto, perché non provano vero rimorso per il loro peccato. E lo dimostra il fatto che si lamentano per il modo nel quale Yahweh, il loro Dio, ha reagito alla situazione. Il loro rimorso, il loro disappunto, non portava alcun cambiamento nel cuore o nell'atteggiamento. Stessa cosa dice Yahweh tramite il profeta Ezechiele, lamentandosi di un rimorso finto. Mi cercano giorno dopo giorno. Prendono piacere a conoscere le mie vie, come una nazione che avesse praticato la giustizia e non avesse abbandonato la legge del suo Dio. Mi domandano dei giudizi giusti. Prendono piacere ad accostarsi a Dio. Perché, dicono essi, quando abbiamo digiunato non ci hai visti? Quando ci siamo umiliati non lo hai notato? Il dolore c'era, l'umiliazione anche, il rimorso non mancava. Eppure, non procurava nessun cambiamento. Il rimorso umano spesso in realtà è una sottile ribellione a Dio. Chi è pieno di rimorsi a dire il vero è arrabbiato perché le regole sono troppe rigide e le vorrebbe infrangere. Perciò la sua vita rimane sempre uguale, continua sempre a commettere gli stessi errori, ma nonostante tutto vuole comunque ricevere la benedizione di Dio. E, come se dicesse a Dio, va bene. Desiderare la roba e la donna degli altri è sbagliato, e io qualche volta ho infranto questo comandamento, ma perché meno, oh Dio, hai messo questo divieto? Proprio quelle cose che a me piacciono. Essenzialmente, chi prova il rimorso non è d'accordo con Dio sul proprio peccato e gli dice che le sue leggi sono troppe rigide. I suoi standard sono troppi elevati. Quando si è colti in flagrante, si riconosce il proprio peccato, si fa confessione del proprio errore, ma non si confessa la propria malvagità, né si vede la vera condizione del proprio cuore. Questo spiega perché c'è un certo pentimento, ma non un cambiamento. Occorre sviluppare il coraggio di osservare brutalmente quello che si è. Il peccato segreto, se lasciato nascosto, nutre la segreta convinzione che il giudizio di Dio sul peccato sia troppo severo. Dobbiamo scoprire il peccato e poi permettere allo Spirito di Dio di mostrarne tutta la sua gravità. Quando permettiamo a Dio di investigare il nostro cuore, iniziamo a riconoscere che il suo giudizio è assolutamente vero e corrispondete alla verità. Siamo ingannatori, arroganti, testardi, deformati e incurabili. Pochissimi sono preparati ad affrontare una catastrofe così massiccia, come pochissimi sono in grado di accettare che in loro non vi sia assolutamente nulla di buono. Nel leggere l'opinione di Gesù proprio in merito al nostro compiere delle buone azioni, ho ricevuto la rivelazione della gravità morale della mia condizione umana e quindi di tutti gli uomini. Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano. Miti 7.10. Per un istinto naturale noi genitori ci comportiamo in modo positivo verso i nostri figli dando loro ciò che è per il loro bene. Eppure, nonostante questa nostra bontà, Gesù ci definisce malvagi. Com'è possibile? Perché il far del bene ai figli rientra in un programma umanitario da noi ereditato fin dalla nascita, mentre il vero atto altruistico o la vera espressione d'amore si ricevono in eredità solo da Dio. Chi pensa di essere in grado di compiere il vero bene come atto naturale non ha compreso nulla della sua malvagità e nega l'opinione che Dio ha di lui. Provare rimorso per qualche colpa, essere rincresciuti per aver detto qualche parola in più, vivere dispiaciuti perché si sbaglia, non porterà come inevitabile conseguenza un santo coraggio, né ad una vera conversione a Dio. La questione è molto sottile e delicata. Non si tratta di incoraggiare a essere insensibili verso errori o peccati, ma si tratta di mettere le cose al loro posto. Proprio perché pochi hanno compreso che provare rimorso non vuole dire aver subito una trasformazione nel cuore. Proprio perché affermare di essere dispiaciuti il più delle volte si riferisce al fatto di essere stati scoperti. E proprio perché reagire con una totale frustrazione dopo aver sbagliato è riferito al fatto di essere dispiaciuti di non raggiungere la perfezione. Un rimorso che non produce un cambiamento morale nella vita va ritenuto satanico o diabolico. Parole forti ma vere. Anche Giuda, uno dei 12 discepoli di Gesù, ha provato rimorso per aver tradito il suo maestro. Ma il suo rimorso, il suo disappunto per quello che aveva fatto, o l'afflizione per essersi reso conto della sua totale malvagità, non lo hanno portato automaticamente e irresistibilmente a Gesù, e quindi al ravvedimento. ma ha scelto l'atto di orgoglio del suicidio. Ha preferito togliere ogni possibilità di umiliazione di evitare il riconoscimento della sua totale depravazione, piuttosto che andare a Cristo. Così com era, e accettare il suo perdono più volte offerto. Il rimorso diabolico si compiace o si crogiola del proprio rimorso, e chi ne è vittima vuole risolvere la questione a modo suo. Mentre il vero rimorso è solo un'esperienza che Dio ci concede perché in quella situazione siamo portati ad andare a Cristo, e fortemente spinti a non voler più compiere una simile azione o omissione. Il rimorso che non produce un cambiamento deve essere subito allontanato, perché la vita abbondante che Dio ha promesso e che vuole per i suoi figli non contempla una simile situazione di stabilità. L'esperienza del peccato, del momentaneo rincrescimento, sono esperienze che occasionalmente colpiscono i figli di Dio, ma non possono essere la loro normale condotta. Occorre perciò guardarsi dal rimorso, da qualsiasi tipo di rimorso. La parola di Dio ci ricorda l'episodio del re Davide, che per orgoglio fece il censimento e poi ne provò rimorso. 2 SM 24.10. Stessa cosa anche per aver commesso un assassinio e adulterio. Eppure visse pienamente un rapporto meraviglioso con il suo Dio e fu premiato per la sua umiltà. Essere umili significa non accettare che il rimorso agiti la nostra coscienza, perché l'amore di Dio è in grado di renderla serena per sempre. Un rimorso. Rimosso. Ottobre 2007. Ellero.